Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Per cominciare Eclectic nella settimana che ci porterà dritti dritti nel mese di dicembre, l'ultimo mese dell'anno. E infatti l'autore, soprattutto il primo incipit che vi vado a leggere quest'oggi, è molto ispirato al Natale, con lo spirito di Eclectic però. E fra pochi secondi scoprirete questa cosa. Giulio Caperdoni in vostra compagnia con le consuete quattro parti settimanali di Eclectic. Avrò poi modo anche di dirvi dove potrei mandarvi nei prossimi giorni, nel senso di concerti ovviamente. Marley, prima di tutto, era morto. Su questo non c'è alcun dubbio. Il registro della sepoltura era firmato dal pastore, dal chierico, dall'impresario di pompe funebri e da chi aveva guidato le prescritte lamentazioni funebri. Scrooge l'aveva firmato e il nome di Scrooge valeva quanto l'oro, su qualsiasi cosa fosse scritto. Il vecchio Marley era tanto morto quanto un chiodo di porta. Badate, non voglio dire che io sappia alla perfezione cosa ci sia di particolarmente morto in un chiodo di porta. Potrei essere più portato a ritenere che il pezzo più morto della ferramenta in commercio sia il chiodo di bara. Ma la saggezza dei nostri avi è nelle similitudini. E il paese andrebbe a rotoli se osassi turbarla con una mano sacrilega. Permettetemi perciò di ripetere solennemente che Marley era tanto morto quanto un chiodo di porta. Questo era l'incipit di Cantico di Natale di Charles Dickens. E quest'oggi siamo andati a ripescare dalla playlist del 1966. 1966 ho detto? Volevo dire 1996 di Eclettica, Rainmaker da parte di Sparkle Horse. Invece abbiamo aperto Eclettica questa settimana con un grande disco italiano, meglio con una grande canzone italiana. Poi come sapete io prendo impegno solo sulle singole canzoni. Vedremo se ce ne saranno delle altre dall'album d'esordio ufficiale dei My Scars che compariranno all'interno delle playlist di Eclettica. L'album si chiama I'm the Creature, esce per Homeslip Music e noi ci siamo ascoltati Introducing the Liquid Pets, che già settimana scorsa ha lasciato il segno, e anche le pagine di MySpace hanno denotato appunto questo. E proseguiamo il buon momento della musica italiana, il buon momento degli esordi italiani con The Banshee, che invece escono per Suicide con Public Talks, dal quale da qualche settimana ci stiamo ascoltando questa Games People Play. Siate, vi supplico. Dovete aiutarmi. Ma sono io, Gianna. Ma che cosa dici? Oh, Gianna. Tanto non mi sfuggirai. Ti pronto? Ucciderò lo stesso. Ah, una volta o l'altra. Mm. without key and stringless guitar. You're a door which opens on a raven. You're a dumb space which screams in and without a star. Ci siamo così ascoltati una nuova volta i Morose. Ci ha permesso di rimanere a Genova, fra l'altro, questo ascolto. A Genova, da cui proveniva l'album On the Back of Each Day, e invece il brano Haven't You Noticed. Un inizio molto molto italiano, a parte così una fuga garantita dalle playlist del passato. Un inizio molto italiano della prima parte, quindi dell'intera settimana di Eclettica. Ma perché ci sono i valori in campo che ci permettano di puntare sull'Italia. Termino qua, mi sono accorto di aver raggiunto un'enfasi forse eccessiva. Vi avevo promesso un po' di biglietti per quanto riguarda i concerti. Fra l'altro uno è arrivato proprio all'ultimissimo momento, giusto in tempo. Se siete liberi il primo di dicembre al Transilvania di Milano suonerà John Fox. La stessa sera invece allo Zero Music Club Molteni. Il 2 al Covo di Bologna i Two Gallants. E poi cos'è che è rimasto fuori? Ah, questo. I Super System, due date, una a Milano e una dalle parti di Bergamo. Quella di Milano il 4 al Transilvania, quella dalle parti di Bergamo, indovinate un po' dove? Allo Zero Music Club, l'8 di dicembre. Per vincere questi biglietti l'importante è che siate veloci a scrivere all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. You belong to the gang, and you say you can't break away, but I'm here with my hands on my heart, and our families can't agree. I'm your brother's sworn enemy, but he shouts out my love to the Siamo andati anche a riprendere The Crane Wife per quanto riguarda i Decemberists, nella fattispecie il brano O Valencia. Ed ora, grazie alla Foreign Affairs, ho la possibilità di chiudere la prima parte di Eclettica di questa settimana con un bel nome che arriva da Austin, nel Texas, estratto dalla Kitsune Maison Compilation numero 3. Vi ricordate, nella numero 2 avevo scelto il remix molto bello di Woman dei Wolf Mother. Anche qua ci sono dei remix molto belli, per esempio uno dei Soul Walks denominato Night Version, di Standing in the Way of Control dei Gossip, o anche altri che magari troverò il tempo di trasmettervi. Ma a me ha colpito molto questa I Love You Old Time. Loro si chiamano Oh No, Oh My, con anche due punti esclamativi che troverete nella giusta posizione sulla playlist di Eclettica. We'll be right back. eclettica. Fine della prima parte.